In Europa imperversa la quarta ondata della pandemia, anche con la variante Omicron che continua a destare preoccupazione. Noi cerchiamo di capire se l'Europa si muove con una strategia e qual è questa strategia. Ne parliamo con Francesca De Benedetti, giornalista del Domani, che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te direttore e a tutti gli ascoltatori della radio. Allora Francesca, cominciamo con la questione dei brevetti, perché appunto a Ginevra questa settimana c'era l'interministeriale del WTO, che però ha subito proprio il calendario una rivoluzione proprio a causa della variante. Chi l'avrebbe mai detto? Io mi sarei aspettata esattamente il contrario, che di fronte a un'emergenza di questo tipo si cercasse di risolvere la situazione al più presto, anche con una riunione virtuale, come siamo ormai abituati a fare. Invece, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è riunita, ha anche deciso di aprire una convenzione su un trattato pandemico, il bisfrattato WTO è stato rinviato probabilmente a marzo, con il sud globale in rivolta, giustamente, perché come lo stesso presidente degli Stati Uniti aveva detto la settimana scorsa, la notizia di Omicron rende sempre più palese che se non usciamo tutti dalla pandemia nessuno ne uscirà, e quindi Biden aveva fatto un appello proprio ufficiale dalla Casa Bianca a tutta la comunità globale per appoggiare finalmente il cosiddetto TRIPS waiver, cioè la deroga sui brevetti, come lui fa da questa primavera. Dice: non c'è più tempo da perdere, bisogna farlo subito. A chi si rivolge? In realtà, quando si parla di comunità globale, a parte Londra, pochi altri, c'è soprattutto un interlocutore che blocca l'accesso equo ai vaccini, ed è, ahimè, proprio l'Unione Europea. Ecco, quindi l'Unione Europea mantiene la sua linea contraria. L'Unione Europea per tanti mesi ha provato a dilazionare il dibattito, a impaludarlo in svariati modi. Quando appunto anche gli Stati Uniti tra aprile e maggio hanno sbloccato la loro posizione, a quel punto era inevitabile iniziare le cosiddette text-based negotiations, cioè iniziare a trattare nel merito di questa deroga sui brevetti. A quel punto l'Unione Europea cosa ha fatto? Ha formalizzato una sua proposta, che è all'incirca quella di cui tuttora si parla nei discorsi dei commissari e della Presidente. È una proposta che di fatto evita una soluzione radicale della questione, perché si avvicina molto alla soluzione delle cosiddette licenze obbligatorie, che però sono un approccio che va paese per paese, quindi mette ogni paese di fronte alla eventualità più che probabile di uno scontro solitario con Big Pharma, vicissitudini giuridiche molto complesse, e poi non tutti i paesi hanno un apparato legislativo tale da poter recepire immediatamente questa ipotesi. Infatti paesi come l'India lo sanno bene, hanno avuto esperienze di scontri decennali con le case farmaceutiche, e noi non abbiamo tempo da perdere. Pensa direttore che se avessimo applicato subito la deroga sui brevetti quando India e Sudafrica l'hanno chiesto, cioè ottobre 2020, avremmo già prodotto 8 miliardi di dosi di vaccini, perché uno studio di scenario autorevole prodotto da Public Citizen e dall'Imperial College dice proprio che in un anno, con la deroga sui brevetti, c'è una capacità manufatturiera tale da produrre 8 miliardi di dosi. È un anno già passato, perché l'Europa tergiversa. Quindi vengono meno anche le obiezioni di chi sostiene la necessità della proprietà intellettuale, secondo cui appunto se si tolgono i brevetti poi la stessa Big Pharma non è più interessata a produrre vaccini. Il problema è proprio il brevetto che ostacola la produzione. Allora, diciamo che c'è una questione generale di trasferimento delle tecnologie, non è esclusivamente puramente il brevetto, ma in effetti se si analizza il cosiddetto TRIPS waiver si tratta di fare delle deroghe mirate all'emergenza ad alcune tutele della proprietà intellettuale, quindi noi semplifichiamo con deroga sui brevetti. E va detto una cosa molto importante che è stata ricordata anche da economisti autorevoli come Mariana Mazzucato sull'Economist qualche mese fa, e cioè che questi brevetti sono figli nostri, nel senso che la ricerca e innovazione dei vaccini è stata largamente finanziata con fondi pubblici, anche fondi europei, quindi in un certo senso quella conoscenza ci appartiene di tutti, però è stata messa sotto lucchetto da Big Pharma, che ne è molto gelosa. Il problema è che, come lo stesso CEO di Pfizer ha detto proprio in queste ore alla BBC, ormai la pandemia diventerà endemica, cioè ogni anno ci dovremo fare il vaccino. E il problema qual è? Che i CEO di queste grandi case farmaceutiche hanno già detto che finita l'emergenza alzeranno i prezzi, e lo stanno iniziando a fare. Pensa che negli ultimi accordi con l'Unione Europea il prezzo è già salito del 25%. Se noi immaginiamo uno scenario di vaccini continui, pagati con soldi pubblici a prezzi sempre più cari, cioè questo significa mettere in crisi la sanità pubblica. Ultimo argomento, non irrilevante. Capisco le esigenze di Big Pharma, anche se sta facendo profitti su profitti. Chiaramente queste soluzioni del WTO, che sono previste dall'accordo TRIPS, prevedono anche delle compensazioni. Non si tratta di imporre il socialismo reale, si tratta di uscire da una situazione di emergenza. E se invece non lo si fa, è tutta l'economia che va in crisi, cioè noi per salvare un settore specifico stiamo mandando in panne non solo la vita delle persone ma anche dell'economia, tanto che l'ambasciatore indiano alla WTO disse proprio qualche mese fa: com'è possibile che senza esitazione abbiamo limitato le libertà delle persone con i lockdown e ci facciamo tanti scrupoli a imporre qualche limite alle aziende quando ne va della vita e dell'economia globale? Sì, vorrei fare una domanda più generale invece su altre questioni che riguardano sempre l'Europa, perché in settimana la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha aperto alla possibilità di una discussione sull'obbligo vaccinale. Ieri Angela Merkel ha parlato di lockdown selettivi per non vaccinati. Tu che segui molto l'Europa, che impressione ti sei fatta? C'è una, come dire, una strategia unica a livello europeo o ciascuno continua ad andare per conto suo? Io penso che le strategie uniformi siano cose rare, paradossalmente si ottengono in situazioni come quella di bloccare la deroga sui brevetti, quando si tratta invece di armonizzare diventa tutto molto più complesso, tant'è vero che il presidente del Consiglio europeo Charles Michel aveva provato a convocare un vertice straordinario in vista di Omicron, ma non è riuscito a fissarlo, mentre invece Ursula von der Leyen subito è riuscita a riunirsi con i capi delle aziende farmaceutiche, quindi ci sono queste contraddizioni. È vero che proprio in sintonia con lo spostamento di posizione di Angela Merkel, che ha iniziato a parlare di obbligo vaccinale, anche Ursula von der Leyen ha fatto lo stesso. Chiaramente lei ha detto che bisogna discuterne, non ha detto che l'Europa imporrà l'obbligo vaccinale, e infatti le indiscrezioni che arrivano da chi segue la bolla di Bruxelles dicono proprio che il rappresentante permanente italiano a Bruxelles dice sì, queste proposte vanno discusse, ma anche in base alle situazioni dei vari paesi. Chiaramente un paese come l'Italia, che ha un tasso di vaccinati altissimo, non è come la Bulgaria in cui la maggior parte delle persone non è vaccinata, e quindi bisogna trovare una soluzione. Io immagino che arriveranno alla conclusione che l'obbligo, il forte incentivo c'è nei paesi dove effettivamente c'è un problema. Non immagino che nell'immediato Bruxelles imponga il vaccino obbligatorio, la vedo molto complicata. E quindi insomma ci sono degli apripista che spostano le tendenze dell'Unione Europea, ma da qui ad arrivare a una soluzione armonica, anche se la pandemia è iniziata da un bel po', la vedo molto dura. Io ti ringrazio. Grazie a te e buona trasmissione.